RomagnaOggi.it. Notizie flash. Buonasera dalla redazione di RomagnaOggi.it. Queste le principali notizie di oggi 3 giugno 2006. Cominciamo con Cattolica. Schianto fatale in A14, muore 32enne. Un uomo di 32 anni, FP, è deceduto questa mattina alle 4 in un incidente stradale accaduto su autostrada A14 presso il casello di Cattolica. Il giovane era di Fermignano, Pesaro Urbino, come gli altri due passeggeri che erano a bordo del mezzo. Uno di loro è in prognosi riservata. Continuiamo con un'altra notizia riguardante sempre la nostra riviera. Cervia, giallo al porto, dalle acque emerge un cadavere. Il cadavere di un trentenne di origine marocchina è stato rinvenuto da alcuni pescatori del porto canale di Cervia. Il macabro ritrovamento sarebbe avvenuto venerdì 2 giugno attorno alle 9. Per quanto riguarda Riccione, lettera Prodi, fare chiarezza sulla morte di Ilaria Alpi. Il premio Ilaria Alpi ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri Romano Prodi con una richiesta precisa che il Governo si attivi per fare piena luce sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Krovatic, avvenuta il 20 marzo 1994 a Mogadiscio, sempre dalla riviera, esattamente da Rimini. Turismo, la Riviera sbarca in Asia, è atterrato sabato al Federico Fellini il primo volo proveniente dall'Asia. Il volo arriva da una delle tre località russo-asiatiche collegate quest'anno con la Riviera. Ed ora lo sport, MotoGP, al Mugello Rossi e Capirossi dietro a Gibernau. A vincente turno alle prove del Mugello per il Gran Premio d'Italia, domenica. Negli ultimi secondi il pilota della Ducati, Sete Gibernau, si è aggiudicato la pole, segnando anche il nuovo record della pista, secondo il compagno Capirossi, terzo Valentino Rossi. Concludiamo il nostro notiziario con un'altra entusiasmante notizia sportiva. Per quanto riguarda il ciclismo, Daniele Bennati vince il Memorial Marco Pantani. Daniele Bennati della Lampre Fondital ha vinto il Memorial Marco Pantani Gran Premio Mercatone 1 Trofeo Villani da Cesenatico a Cesena. La fuga decisiva della corsa è stata quella di Ruslan Pitgorni, ripreso a 5 km dal traguardo da Mazzanti e Bennati. Questo è tutto, al prossimo appuntamento, alla prossima edizione, sempre solo su RomagnaOggi.it.